Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Cantautore, scrittore, poeta, conduttore, centrocampista con all'attivo 261 presente e 107 gol. Il segreto per riuscire a fare tutto questo, per coltivare la voglia di mettersi e rimettersi in gioco, per avere la forza di sognare e direi il coraggio di sperimentare, di accettare nuove sfide e nuove avventure, l'energia di poche persone, quelle giuste. Questo libro è dedicato alle poche persone che mi fanno venire voglia di essere migliore. Andiamo per ordine. Il libro si intitola Non si può morire la notte di Natale. L'autore è Enrico Ruggeri, che è qui in studio con me. Enrico. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte. Le poche persone che gli fanno venire voglia di diventare migliore ce le svelerà tra poco. Intanto, se volete saperlo e parlare con Enrico, chiamate subito, subito al nostro numero verde 800 24 00 24. Naturalmente seguiteci su Facebook e su Twitter. Enrico, chi sono le persone che ti fanno venire la voglia di essere migliore, che caratteristiche hanno e soprattutto quali strategie usano per attivarti? Ma alcune. Qualcuno diceva che amare significa esagerare la differenza tra una persona e le altre, quindi le persone che scegli nella vita non necessariamente sono le migliori, sono quelle. Poi naturalmente quando uno sceglie una persona per lavorarci assieme, per viverci assieme, per avere alcuni rapporti assieme, probabilmente segue delle caratteristiche, insomma, quindi persone che mi stimolino, che mi vogliano bene, persone per bene, possibilmente, insomma, con le quali discutere il meno possibile o quantomeno confrontarsi senza farsi del male. Questo credo sia. Poi invece ci sono le persone che ami per DNA, che sono i genitori che non ci sono più e i figli che ami in quanto tali. Volevo chiedere a voi invece quali sono le persone che vi fanno venire voglia di essere migliore. 800 24 00 24. Quante vite avrei voluto, quante vite avrei vissuto, quante alternative per chi vive in una vita sola, quante prospettive per potersi innamorare ancora di altre vite. Enrico, quante vite avrei voluto? È il titolo di una tua canzone, ma di vite tu ne hai più di una, due, tre? Beh, sì, probabilmente. Quattro. Questa canzone, insomma, è una di quelle che mi rappresentano di più. Perché mette a fuoco una, come dire, una pulsione che abbiamo tutti, perché tutti, almeno una volta nella vita, ma secondo me molto più spesso, forse una volta al giorno, si sono domandati cosa avrebbe potuto essere la loro vita se invece, in genere, insomma, le donne che lavorano molto dicono se avessi avuto più tempo per la famiglia, le donne che hanno solo la famiglia se avessi più tempo per lavorare, lo scapolo rimpiange, dice allo sposato beato te che hai qualcuno a casa che ti aspetta, lo sposato dice allo scapolo beato te che puoi fare, sei libero di mangiare alle due di notte, di uscire quando ti pare, insomma. Questo è l'uomo, per cui indubbiamente, insomma, questa canzone ne mette in evidenza questa sindrome, che è quella di continuare in qualche modo ogni tanto a rimpiangere quello che non ha potuto fare, perché invece, ahimè, di vita ce n'è una sola da vivere. Per quanto mi riguarda, almeno professionalmente, se così si può dire, sono uno curioso, insomma, ho fatto tanti dischi, ho fatto però anche, ho scritto dei libri, gioco a pallone, ho fatto un po' di televisione, cerco di viverne il più possibile di vita. Dalla musica alla scrittura, Enrico, in un'intervista a Vanity Fair hai detto che scrivere è un esorcismo. Ma sì, è una cosa che consiglio a tutti. Nel momento in cui tu scrivi, alcune cose di te che non ti sono chiare cominciano a palesarsi. Questo anche quando scrivi il diario e poi lo chiudi in un cassetto perché tua madre non lo veda, insomma. Scrivere fa bene. Poi naturalmente cercare magari di esorcizzare i propri incubi, le proprie paure, è una, come dire, una cosa che dà benessere all'animo, comunque solleva. È terapeutica la scrittura, assolutamente. Sicuramente, non è un caso, insomma, evidentemente, non l'ho fatto apposta, però in tutti i libri che ho scritto, particolarmente negli ultimi due romanzi, il precedente era il romanzo che raccontava la storia di un cantante che ha avuto un solo brano di successo e poi ha passato la vita a cercare di replicarlo, quindi diciamo di uno fallito, di un mediocre, e evidentemente questo è un mio incubo, insomma la paura di svegliarmi e avere 18 anni e non 55, non tanto per i 18 anni che di per sé sono un'età migliore, ma dover ricominciare tutta la battaglia da capo è una cosa che mi fa sudare freddo ed è finita in un libro. Questo che è un libro che parla di rapporti interpersonali un po' disastrati tra genitori, figli, coniugi, eccetera, evidentemente è un'altra paura, che è quella, insomma, di non essere riuscito a meritarmi i miei affetti. Esce domani Non si può morire la notte di Natale, di cui parleremo, è il secondo romanzo della tua già secondo ricca romanzo. Esperienza editoriale, infatti pubblicato raccolte di racconti o poesie, sì. Saggi. Sì, sì. Ti sei misurato proprio in generi diversi, qual è quello che ti senti più cucito addosso? Beh, no, il romanzo è un punto d'arrivo, insomma, perché uno parte dalla canzone che è uno spettacolo d'arte varia di 3-4 minuti e poi piano piano si accorge che ci sono cose che non ci stanno dentro le canzoni e allora si comincia a scrivere dei racconti, si scrive la biografia, l'autobiografia, insomma si racconta qualcosa, ma è chiaro che il romanzo è un punto d'arrivo, perché il romanzo è come dire, uno sforzo della mente molto ampio e in qualche modo molto gratificante, soprattutto per uno come me che tende a fare una cosa e stancarsene subito, insomma il romanzo implica un amore, un'applicazione che io non sempre ho avuto. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo, che abbiamo invitato ad accompagnarci nella puntata di oggi, che è un tuo grande estimatore Enrico. Grazie. Nonché un raffinato psicologo, musicista, posso aggiungere, e anche scrittore. Insomma, abbiamo scelto per accompagnare te, che sei così poliedrico, un esperto che ti somiglia un po'. Dottor Aquilar, buongiorno. Buongiorno e buongiorno Enrico Ruggeri. Buongiorno, a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno. Dottor Aquilar, Enrico ha suggerito, le ha già suggerito, immagino, qualche spunto. Ma certamente, lo spunto bellissimo è quello di cercare di circondarsi di persone per bene con cui confrontarsi senza farsi del male, che credo sia una cosa che tutti noi dovremmo imparare a memoria e applicare. E questo è solo uno, nel romanzo ci sono molti spunti dei quali spero di parlare più avanti. Intanto però, a proposito della capacità di svolgere più cose contemporaneamente o in sequenza, potremmo chiedere ai nostri ascoltatori di raccontarci, prendendo spunto da un famoso frammento di Archiloco alla base di un altrettanto famoso saggio di Isaiah Berlin, se loro si sentono più un riccio o una volpe, se cioè preferiscono approfondire perfettamente un campo fino a conoscerlo benissimo, ma un campo limitato come il riccio, o se invece preferiscono esplorare nella loro vita più campi diversi, come fa Enrico Ruggeri, trovandoli tutti interessanti, e che cosa i nostri ascoltatori hanno imparato dalla loro scelta di essere un riccio o una volpe. Poi potremo commentare insieme le scelte dei nostri ascoltatori, a cui chiediamo: siete un riccio o una volpe? Allora, ricci o volpi, scrivete, chiamate 800 24 00 24, commenteremo insieme le vostre scelte, ma Enrico Ruggeri ne sceglierà due. Sì. A cui io chiedo di regalare il suo libro con tanto di autografo. Va bene, ci stai? Sarà fatto. Allora Enrico, parliamo dello scrittore, ma rassicuriamo anche subito i tuoi fan, perché parleremo anche del cantautore, del musicista, ma una cosa alla volta, perché io a differenza tua non riesco a fare più cose insieme. Parliamo e partiamo da Enrico scrittore, dal protagonista del suo ultimo romanzo. Giorgio Sala è un nome che significa qualcosa. Sono famoso. Non una superstar, ma il mio volto lo conoscono tutti. Ho 50 anni e faccio l'attore da quando ero ragazzo. Sono bravo. Ho cominciato con il teatro. Gli attori che possono dire «ha ragione, vengo dal teatro» esibiscono una specie di snobistico complesso di superiorità nei confronti degli altri. Perché oggi recitano tutti. Ex modelli, cantanti, concorrenti di reality, amanti di politici. Bisogna prendere le distanze. Naturalmente il grande pubblico mi conosce perché ho fatto la fiction, una manciata di sceneggiati televisivi che mi hanno permesso di guadagnare più di 10 anni di tournée, in cui ho portato in giro Shakespeare, Leonesco, Molière e perfino Chekhov. Ed eccoci qui, Enrico. I personaggi dei tuoi romanzi sono artisti, l'hai anticipato. Francesco Ronchi, protagonista di Che giorno sarà, era un cantante fallito. E Giorgio Sale, un attore di teatro. E non è un caso. Sono entrambi uomini. Quanto ti assomigliano? Ma un po', parecchietto. Sì, sicuramente sono un'esasperazione delle mie debolezze, delle mie paure, delle mie cialtronerie, della parte insomma più maldestra di noi. Giorgio Sala sicuramente, e anche il Ronchi. Il cantante Ronchi è evidentemente uno che non ce l'ha fatta per tanti motivi, tra cui probabilmente la sua mediocrità. E questo Sala ce l'ha fatta, ma non nel modo che avrebbe voluto, nel senso che poi è famoso più per le cose che gli piaceva meno fare che non per quelle che lo rappresentavano, e caratterialmente fa fatica a farsi voler bene dalle persone che lo circondano. Non sono bello, però appartengo alla categoria degli interessanti. Insomma, piaccio alle donne. Soprattutto dopo che 15 anni fa ho interpretato un romantico eroe del Risorgimento. Un Carlo Pisacane, sognatore e un po' cialtrone, che muore sotto gli occhi di una bellissima ex valletta. Poco convincente passionaria pettoruta e amante della libertà. Sono il tipo di uomo che migliora col tempo e con l'aumentare delle rughe. Possiedo una discreta cultura che non ostento, ma della quale a piccole dosi mi avvalgo volentieri. Cosa si fa quando si muore davvero? Mistero. Tre immagini, Enrico, che tu usi per descrivere il personaggio del tuo libro, del tuo ultimo romanzo, e che io invece vorrei, insieme al dottor Aquilar, usare per parlare con te di te. Non sono bello, però appartengo alla categoria degli interessanti. Dottor Aquilar, è sempre in linea con noi? Certo, certo. Beh, intanto diciamo che il personaggio di Enrico Ruggeri lotta contro la depressione e il narcisismo, e rispetto agli aspetti di cui stavamo parlando, penso che potremmo parlare di un garbo della conquista. Un garbo non essendo bello, ha dovuto diventare interessante e sempre più interessante col passare del tempo, migliorando anche la sua immagine. E con garbo, sempre per conquistare, ha inserito anche la cultura, discreta ma a piccole dosi. Il personaggio e forse anche l'autore sembrano muoversi in questa direzione, con tutte le armi possibili e magari con qualche rimpianto. Inoltre, sembra esserci in Enrico Ruggeri una particolare attenzione per i momenti di svolta della vita, come in una sua trasmissione televisiva, sì, e anche nell'accanimento con cui cita nel romanzo la morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller. Enrico, ti senti descritto in modo puntuale dal dottor Aquilar? Beh sì, evidentemente da questo punto di vista diciamo che il personaggio del romanzo, ecco, ha delle affinità. La prima regola per scrivere un libro quantomeno dignitoso è quella di parlare di cose che conosci bene. Difficilmente insomma riuscirei, senza informarmi a dovere, a scrivere un libro su uno del Risorgimento o su un antico romano. Questo è un mondo che conosco bene, e tutto sommato anche le sindromi del protagonista o anche l'autoanalisi che fa il protagonista, in qualche modo è chiaro che mi sono un po' affini. Senti, tu appartieni alla categoria degli uomini interessanti anche perché hai diversi interessi, e qua rilancio la provocazione, la sfida, l'invito proposto dal dottor Aquilar: riccio o volpe? Tu sei sicuramente volpe. Sì, beh, io se fossi stato un atleta sarei stato un decatleta, sicuramente. mi sarebbe piaciuto fare Decathlon, perché fatico a dedicare tutta la vita a qualcosa di così monotematico. Il mio difetto è che mi stufo un po'. Ma sei sempre stato così o sei diventato sono sempre curioso con come indole sono sempre stato così, insomma, da bambino non facevo prima tutto il compito di matematica e poi il tema, facevo mezzo compito di matematica, poi avevo voglia di scrivere il tema, poi facevi un po' di disegno. Esatto, sì. Abbiamo Michele che ci chiama da Ferrara e Maria da Reggio Calabria. Michele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, io direi che sono una persona molto interessante, non bella, quindi mi cerco di rendermi così. Però sono un po' titubante perché mi sento riccio in quanto a volte tento chiudermi, ma sono più volte perché mi sono reso conto che spaziando in argomenti vari poi ritrovo tutto quanto, quindi leggendo libri di molto diversi e riesco poi a ritrovare sempre un filo conduttore che mi riporta a quello che sto cercando, e questo credo sia molto fantastico e molto bello. E poi mi chiudo a riccio come se questo mi servisse per maturare quello che ho appreso, che ho scoperto. Quindi forse sono un caso atipico. Metà e metà, riccio volpe. Volpe perché mi serve proprio per spaziare, dove mi accorgo che alla fine è tutto collegato. E poi mi chiudo a riccio perché questo mi serve per elaborare tutto quello che ho appreso, per poi riaprirmi. Quindi non so se riesco a spiegare. No, ha spiegato perfettamente Michele. Intanto teniamo la sua definizione, perché in chiusura di trasmissione Enrico Ruggeri sceglierà la definizione che più gli piace. Maria da Reggio Calabria in linea, buongiorno. Buongiorno. E semplicemente questo, riccio o volpe, dipende spesso anche molto dalle contingenze, perché io dico la mia esperienza personale, ho dovuto in quasi 20 anni, dove insomma che ho dato la priorità ovviamente alla famiglia, però il lavoro che avevo scelto era quello di fare l'avvocato, però ho vissuto un po' da riccio, però facevo delle puntatine da volpe nei concerti, nel coro polifonico, nel teatro. Sì. Ora che i ragazzi sono più grandi, a un certo punto niente, il recinto l'ho abbattuto, il tribunale per dare più spazio a quello che mi piaceva di più, ovviamente tenendo sempre ben conto dell'organizzazione familiare, però lo sapevo che si vive una volta sola, però forse l'ho capito bene solo ora, e quindi mi do lo spazio al teatro, qualcosa al cinema, insomma lascia uscire la sua natura di volpe, la mia natura e non solo, ma pure le cose semplici, poter fare il catechismo ai bambini che prima mi era assolutamente inibito da quella montagna di fascicoli che c'avevo sulla scrivania, per me ora è la soddisfazione più grande, ecco. Grazie Maria, noi diamo la linea ai mercati e al meteo. Enrico Ruggeri rimane qui blindato in studio con me, piacevolmente blindato. Questo mi aspettavo. E siamo tornati insieme qui in studio con me, Enrico Ruggeri. Domani esce il suo secondo romanzo. Sì. È stato definito un giallo psicologico con un'atmosfera da Simenon e un finale alla Agatha Christie. Il suo protagonista, Giorgio Sala, abbiamo visto che gli assomiglia un po'. Vogliamo capire con te se è più riccio o più volpe? Questa è un po' la sfida che abbiamo lanciato ai nostri ascoltatori, e in linea con noi abbiamo il dottor Aquilar e Enrico. Se Giorgio Sala è più... il protagonista del mio romanzo probabilmente è più riccio, nel senso che gli è riuscita bene una cosa nella vita, ne ha usufruito sia per sentirsi più sicuro che per dare benessere a tutta questa famiglia un po' strana che nel romanzo viene scoperta, si scoprono i personaggi a uno, però sicuramente è uno che ha usato il suo lavoro per cercare di potenziare le sue relazioni umane e familiari, senza riuscirci. Dottor Aquilar, la volpe intriga di più. Ne parlavamo con Enrico in la pausa dei mercati del meteo. Sembra un atteggiamento, un modo di essere più creativo, più positivo, più curioso. Il riccio sembra che vada un po' in ribasso, almeno tra gli ascoltatori di Radio 24, moltissimi messaggi mi scrivono assolutamente volpe, riccio ma poi convertito in volpe, volpe. Tranne i ricci che mi dicono io sono riccio, il mio unico interesse è Enrico Ruggeri. Vabbè, quella, grazie. Ma tra gli ascoltatori che hanno chiamato, almeno Michele da Ferrara e Maria da Reggio Calabria, sicuramente sono volpi. Sono volpi che di tanto in tanto approfittano del loro essere volpi per studiarsi bene un determinato terreno. In realtà i ricci sono un po' agorafobici, cioè hanno paura dello spazio troppo aperto e troppo lontano, mentre le volpi sono un po' claustrofobiche, hanno paura di essere incastrate, messe in un settore e non potersi più muovere. Sicuramente il personaggio Giorgio Sala di Enrico Ruggeri è un riccio in questo senso, perché stabilisce un suo terreno e vuole studiarlo bene, il suo terreno che ha a che fare col suo lavoro, con il rapporto con le donne e con l'idea di poter essere d'aiuto a qualcuno per evitare di dover chiedere aiuto. Questa inibizione dell'attaccamento è un altro tema molto interessante del libro, ma certamente i nostri ascoltatori che chiamano sono volpi, perché il riccio sta attento e invece di telefonare sta elaborando tutto quello che noi diciamo nel suo sistema mentale, ecco. 800 24 00 24, quindi invito anche i ricci a chiamare. Sì, ecco, se posso spezzare una lancia, perché io tendo a tifare per il più debole, quindi nella vita il riccio ha più probabilità di riuscita nei confronti della volpe. Sicuramente la professoressa Montalcini è un riccio, Beethoven era un riccio, Manzoni era un riccio, i grandi statisti, prima abbiamo detto De Gasperi era un riccio. Perché normalmente, insomma, quelli che si concentrano su un progetto e vanno a fondo in genere, insomma, sono quelli che poi trionfano nella vita. Dipende da come, è chiaro che da come è posta la domanda è più suggestiva l'ipotesi della volpe. La riformuleresti in altro modo? Per far guadagni, per far aumentare, no, se, il partito dei ricci? Se dovessi difendere il partito dei ricci, direi che se poni la domanda sei in grado di concentrarti a lungo su un progetto o ti disperdi in tanti progetti, già se la poni così forse allora, diventa più suggestiva l'ipotesi riccio. Allora, vi piace più formulata da Enrico Ruggeri o da dottor Aquila? 800 24 00 24 è il nostro numero verde per volpi e per ricci. Alberto dalla provincia di Bergamo, Raffaele da Firenze, Edoardo da Milano, sentiamo che cosa hanno da raccontarci. Vi ricordo che abbiamo due libri di Enrico Ruggeri, autografati da lui, Non si può morire la notte di Natale, Baldini e Castoldi. Alberto, buongiorno. Riccio volpe perché? Buongiorno Nicoletta, buongiorno anche Enrico, buongiorno. Scusate il raffreddore. Volevo dire che io mi sento volpe al 100%, in quanto anche in ambito lavorativo ho cambiato 5 lavori, riuscendo bene quasi in tutti. Adesso che sono 3 anni che ho perso il lavoro, mi sono scoperto i piaceri della cucina, mi sono scoperto cuoco, ho scoperto di avere una bella voce tenorile e mi sono messo anche a cantare. E adesso per esempio ho comprato una pianola, pur non sapendo suonare assolutamente il piano, però vedo che imparo abbastanza alla svelta e dico che è un buon aiuto contro la depressione, contro la tristezza, essere volpi. Dottor Aquila, è così? La volpe vince? Sicuramente, la volpe può combattere più facilmente la sua depressione, ma rischia di cadere nell'altro polo, cioè nell'ipomania. Sono d'accordo anche con Enrico Ruggeri che diceva che i ricci hanno molte probabilità di avere successo nella vita, infatti secondo Berlin ricci erano Dante, Platone, Lucrezio, Pascal e così via. Ma anche le volpi non sono male, perché tra le volpi il filosofo Berlin pone Shakespeare, Erodoto, Aristotele, Erasmo da Rotterdam, Molière. Quindi voglio dire, Leonardo da Vinci era una classica volpe. Dovunque cadiamo bene. Raffaele da Firenze ed Edoardo da Milano. Raffaele, buongiorno. Riccio volpe? Sì, buongiorno. Volpe, un'altra volpe. Fin da bambino, perché ho iniziato a scrivere, volevo scrivere il romanzo della vita di fantascienza, non sono mai riuscito a scrivere un romanzo, però tanti racconti, anch'io come il signore di prima ho cambiato lavoro anche come forma, da dipendente imprenditore, ora libero professionista, di nuovo imprenditore nel campo della fisioterapia, prima ero gioielliere, quindi cose molto, molto diverse. Beh, quindi anche a Raffaele una volpe pura, e andiamo ad Edoardo da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Edoardo, buongiorno, si faccia un po' riccio, su. Ma io, ecco, infatti, io casco a pennello, perché io purtroppo nasco volpe, ma sono una volpe che da anni cerca di trasformarsi in tanti ricci. In tanti ricci? In tanti ricci, però non uno solo, perché sempre volpe resto, nel senso che, appunto, anche io ho cambiato 100.000 mestieri, sempre in campo artistico, faccio mille cose, anch'io musicista, anch'io scrittore, anch'io attore, anch'io autore. Insomma, un po'... Però poi scontrandosi con il mercato e con il mercato italiano, spesso mi viene chiesto: ma tu cosa vuoi fare veramente? Come dire, ma se vuoi veramente diventare qualcuno devi farne una di queste cose. Io non sono capace. Per questo quindi dico... la sua ricetta, la ricetta di Edoardo da Milano, dottor Aquila Re, sono volpe ma vorrei diventare non un riccio ma tanti ricci. Anche Giorgio Sala ha dei figli. Ho due figli che stanno con la madre. Il maggiore l'ho chiamato Giorgio, come me. Mia moglie non voleva e da bambino lo aveva già trasformato in Joe. Anche lui preferisce il diminutivo. Ha 22 anni, è iscritto a una scuola di teatro e giura che lui la televisione non la farà mai. Il secondo ha 20 anni, si chiama Vittorio, come mio padre. Studia e recita. È meno polemico del fratello. Insomma, mi tratta un po' meglio. Enrico, invece tu di figli ne hai tre, sì. Nati in momenti diversi della tua vita, meglio tardi o presto? Tardi te li godi di più, nel senso che quando è nato mio primo figlio io avevo 33 anni e un cantante a 33 anni, forse un uomo, ma insomma uno che faceva un mestiere, che fa un mestiere come il mio, è un bambino, quindi... non ero assolutamente all'altezza per quanto riguarda il primo figlio, insomma è un rapporto recuperato un po' dopo. E quando hai dei figli in età più adulta, sì, in qualche modo te li godi di te più. Li godi di più, insomma sei un po' più responsabile. E te li godi in tempo, quanto riguarda il tempo, di quantità o di qualità? Ovviamente, insomma, tutti i padri che hanno tante cose da fare si affrettano a dire che la qualità, esatto, è superiore alla quantità. Secondo me ci vuole anche la quantità. Però c'è un po' di quantità, ci vuole, perché con i bambini, insomma, non è come con gli adulti. I bambini hanno delle ripetitività, delle ritualità, e quindi a volte proprio nella ripetitività i bambini trovano le loro sicurezze. Voglio dare il benvenuto alla dottoressa Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Buongiorno, dottoressa Trinci. Buongiorno a voi, buongiorno a Enrico Ruggeri. Buongiorno. Che ci aiuta a scoprire Enrico Ruggeri padre. Wow. Proviamoci. Proviamo. Sei pronto, Enrico? Sì. Per delle domandine, non sono trabocchetto. No. Dottoressa Trinci. No. Grazie. Allora, dunque, iniziamo da una notazione. Intanto io ho ascoltato la sua canzone Padre e figli e devo dire che è bellissima, veramente. C'è una vena di nostalgia, di delicatissima, e questo mi ha fatto venire in mente, no, questo fatto che le stagioni si rincorrono, si contano le stagioni, che sono le stesse, no, di padre in figlio in qualche maniera. E a un certo punto c'è questo bambino e bambino grande, io immagino sia anche lei in qualche maniera, che con questo sguardo che andrà incontro alla vita e non c'è più posto per il padre, no? Insomma, in qualche modo è la legge giusta anche. Allora io mi sono chiesta, avendo visto così che lei è rimasto orfano abbastanza presto del padre, sì, che era giovane, era l'83, esatto, e mi ha colpito molto una cosa dolcissima che lei ha detto, che non ha foto, no? Che non ha molte foto con il padre, e la canzone invece comincia proprio con le foto ingiallite. Ecco, io mi chiedo quanto questo sentimento delicato ha poi giocato nell'essere lei diventato padre. Beh, molto, molto. In genere, insomma, si cerca di dare ai propri figli, magari maldestramente qualche volta, però si cerca di dare ai propri figli quello che non hai non avuto, sei riuscita da figlio, a avere. Insomma, io avevo un padre molto assente, prima fisicamente, poi del tutto, perché è morto quando io ero abbastanza giovane. E per cui è chiaro che la pulsione primaria è questa, non voglio che mio figlio abbia a soffrire quello che ho sofferto io, insomma. Andiamo al rapporto con i... E sembra anche che ci sia riuscito, perché Pier Enrico, che è Pico, sì, no? Il ragazzino chiamato Pico, oggi grande, racconta che non ha sofferto quando si è separato, perlomeno questo è quello che io ho raccolto in un'intervista, sì, sul settimanale Grazie. E poi dice due cose, secondo me, bellissime, che lei gli ha insegnato il valore della creatività, questo credo che sia una cosa meravigliosa. E poi un'altra ancora notazione, dice, abbiamo con il babbo, cioè Pico e il babbo, in comune la tensione perenne verso la sperimentazione, no? Cioè, sono, dottoressa Trinci, sono volpi in questo senso, padre, sì, e figlio, ma c'è di più, Enrico. Lei lo sa che io sono gatto, allora io volevo sapere, davvero gatto, ci sono delle ombre in questo rapporto che sembra davvero vivo, pulsante, bello, invidiabile? Probabilmente sì, diciamo che la comunità di intenti, la condividere le stesse passioni, io quando mio figlio era piccolo ero un po' il padre che lo andava a prendere sotto casa e andava a comprargli lo zucchero filato al Luna Park, insomma, come immagine, quindi c'era tutto un rapporto da non da ricostruire, proprio da costruire. La musica, il fatto che io gli facessi ascoltare della musica che a lui piaceva e viceversa, è stato probabilmente il percorso che ha cementato così l'unione tra padre e figlio. Stavo per dire, ahimè, l'amicizia, che come è ben noto invece mi stava sfuggendo questa parola, perché forse l'unico problema è che siamo un po' più amici che padre e figlio, e questo ogni tanto, insomma, non va bene. Dottoressa Trinci, vorremmo esplorare sicuramente anche il rapporto con i piccolini, perché ecco, abbiamo proprio una manciatina di minuti, quindi possiamo fare, le chiedo di fare a Enrico una domanda secca, che lo facciamo svelare nella sua figura di padre un pochino più âgé. Ok, le metto insieme. Dunque, a 53 anni nasce Eva Clara, sì, e quindi è anche l'impatto con il femminile, con avere una bambina, anziché un bambino, perché gli altri due, Federico, sì, Ugo, che è nato nel 2005, se ho capito bene, è un piccolo sandwich. Sì, la fetta di prosciutto. La fetta di prosciutto. Come se la cava poi? Lei, che è un figlio unico, se ho ben capito, di fronte alle turbolenze di una così bella fratria. Quindi gli elementi femminili e tutti questi bimbi. Paura perché conosco quanto possano essere tremendi gli uomini con le donne, quindi sono già preoccupato adesso che ho 2 anni. E perché sarò un padre molto geloso, quindi dovrò combattere contro la mia gelosia di padre âgé, come dice. Dottoressa Trinci? Promosso, non avevamo dubbi. Grazie dottoressa Trinci per essere stata con noi. Abbiamo molti ascoltatori che ancora in linea all'800240024 per schierarsi tra Ricci e Volpi. Noi sceglieremo adesso fuori onda insieme ad Enrico le definizioni, quelle tra quelle che siamo riusciti a mandare in onda che ti sono piaciute di più. Su Facebook metteremo naturalmente a chi dei nostri ascoltatori vuoi regalare il tuo libro, Non si può morire la notte di Natale. Salutiamo anche il dottor Aquilar. Dottor Aquilar, Riccio Volpe, che ci lasci con un messaggio. Ma siamo delle volpi, però ogni volta che esploriamo un nuovo campo cerchiamo di esplorarlo bene e di leggerne tutti i dettagli. Grazie al dottor Aquilar. Grazie. Enrico, allora cosa ti devo dire? A domani con l'uscita di Non si può morire la notte di Natale. Io sono, esatto, molto contenta di averti avuto qui e che questo libro ci abbia dato la possibilità di riflettere su di noi, sul nostro modo di prendere la vita, su essere ostinatamente ricci o provare a essere volpi, o perché no, come diceva un nostro ascoltatore, da volpe diventare a tanti ricci. Grazie ad Enrico Ruggeri. Grazie a tutti, ciao, arrivederci.